Sentite qui, la pizza come deve essere fatta? La mozzarella deve essere fusa in superficie, aglio e basilico non devono essere bruciati ma profumati, il pomodoro denso e consistente, il cornicione rialzato di 1-2 cm e dorato, lo spessore al centro tra i 0,36 e gli 0,44 cm, la temperatura degli ingredienti all'uscita dal forno devono essere la pasta tra i 60 e i 65 gradi, il pomodoro tra i 75 e gli 80, l'olio tra i 75 e gli 85, la mozzarella tra i 65 e i 70 gradi. L'ha deciso l'Unione Europea, se no non è una pizza. Vi è venuta fame? Chi lo sa? Intanto lo leggete sul Sole 24 Ore, questo nuovo regolamento per la pizza, ma poi chi va a controllare tutte queste cose? Buh, chi lo sa? Andiamo a GR24, votate il sondaggio, parliamo di questa vicenda dalla Gran Bretagna. Un giornalista ha confessato, ho ucciso anni fa il mio compagno perché soffriva in maniera indicibile, è stato un gesto d'amore. Che ne pensate? Sono le 8:17 minuti, eccoci con 24 Mattino, ben ritrovati al momento dell'economia. Soldi e dintorni. Siamo con Deborah Rosciani, buongiorno. Ciao Alessandro, buongiorno. Ciao e ben ritrovata. Grazie mille. E allora? Allora, ci ha colpito in questi giorni una notizia che abbiamo letto sui giornali. Per la verità si riferisce ad un fenomeno che conosciamo abbastanza bene, che è abbastanza noto, lo conosciamo indirettamente. Gli studenti americani accumulano grossissimi debiti per pagarsi studi, master, specializzazione all'università e si ritrovano poi alla fine del percorso di studio delle vere e proprie montagne di soldi da ripagare. A volte questo succede per tutta la vita lavorativa. Non è naturalmente il caso di esagerare, non è un caso che riguarda tutti, però ieri sui giornali veniva riportato un caso limite. Wall Street Journal ha raccontato la storia di tale Michel Bisutti, chissà qual è la pronuncia di questo nome a cavallo fra il francese e l'italiano, comunque di questo medico di 41 anni che vive nell'Ohio, ha accumulato all'inizio qualcosa come $250,000 di debiti che dopo anni di rinvii e di interessi sono diventati oggi oltre $550,000, roba naturalmente da Guinness dei privati, della cattiva gestione delle proprie finanze, però è un caso che fa riflettere perché questo giovane medico dovrà ripagare questo denaro per tutta la vita. Complessivamente negli Stati Uniti sono 730, questo è un dato stock, un aggregato, i miliardi di dollari in prestito per l'istruzione erogati da enti federali o banche privati. Ma i costi di lauree e dottorati negli Stati Uniti in certi casi sono proibitivi, per cui non hanno alternative gli studenti naturalmente per poterseli permettere. Allora, nel nostro paese tutto questo naturalmente non succede, e però la storia di questo ragazzo dell'Ohio ci ha fatto tornare in mente a quanto abbiamo raccontato un anno fa circa da questi stessi microfoni, cioè la partenza dell'iniziativa Diamogli Credito, un accordo fra governo e ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, formulato per favorire i giovani, gli studenti, nell'ottenere finanziamenti per i loro studi. A che punto è questa iniziativa? Come si sono mosse le banche? Questa mattina abbiamo tirato giù dal letto Andrea Veltri, responsabile finanziamenti BNL Gruppo BNP Paribas. Dottor Veltri, buongiorno e grazie di essere con noi. Adesso ricorderemo un po' tutte le caratteristiche dell'iniziativa complessiva e poi ci racconterà il dottor Veltri esattamente loro che cosa stanno facendo, perché spingono in qualche maniera proprio sul concetto del merito, per i ragazzi ovviamente che si meritano questi finanziamenti, migliori sono i voti che ottengono nel corso del percorso di studio, più basso diventa il tasso di interesse applicato al prestito, ma complessivamente un progetto che ha un anno di vita. Dottor Veltri, non abbiamo un aggregato nel caso italiano, ma secondo lei com'è andata? Direi che è andata molto bene in relazione proprio allo spirito con cui era nata l'iniziativa. La domanda è ancora molto forte e il prodotto ci consente di dare una risposta concreta e responsabile a un bisogno vero e oggi molto sentito. Dal lancio ad oggi direi che la domanda è abbastanza stabile, ovviamente all'inizio c'è stato un minimo di picco, ma c'è ancora molto forte la domanda e quindi è bello avere a catalogo un prodotto per rispondere a queste esigenze. Dottor Veltri, è abbastanza improbabile che una banca italiana conceda ad un ragazzo per farlo studiare, per farlo specializzare o nelle università italiane o in quelle all'estero qualcosa come €200,000? È impossibile. Al momento sì, ma è diverso, cioè non c'è neanche il bisogno, è diverso il contesto. Non facciamo paragoni così diretti con il mercato, con quello statunitense, dove è diverso dal lato della domanda. Quindi qui c'è una presenza della famiglia, del risparmio, sono diversi i costi dell'università e c'è diverso il concetto della mobilità. Il fuorisede non è proprio la normalità, mentre gli Stati Uniti è la normalità, e quindi il costo dell'università, parliamo di 20.000 euro l'anno, abbastanza normale come costo, qui in Italia fortunatamente ancora no. Però è bello vedere proprio il bisogno della mobilità. Ci è piaciuto notare una distribuzione dei nostri clienti per regione, è un dato abbastanza sorprendente. Ovviamente la maggior parte dei clienti, come era prevedibile, sono nell'area del Lazio, perché Roma è una città a vocazione studentesca e perché Biennale ha una presenza storica nella città. In questa ma la seconda regione è la Sicilia. Ah. Il 20% dei clienti viene dalla Sicilia, seguita poi dalla Campania. Perché quelli sono gli studenti che si spostano. Che si spostano, certo. La città di Milano o di Roma vede la presenza degli studenti da altre regioni del Sud Italia. Certo, poi magari non si possono permettere di stare 10 anni fuori città, la famiglia non si può permettere di mantenere il figlio fuori dalla propria città d'origine per lungo tempo. Sono ragazzi meritevoli che si sbrigano a studiare, quindi compiono il percorso universitario nei tempi regolari, naturalmente, per cui una banca è chiaramente più invogliata ad elargire il loro credito. Sono però dei prestiti molto modesti. Vogliamo ricordare le condizioni di Diamogli Credito, dottor Veltri, ci aiuta? Sì, allora, Diamogli Credito è un prestito agevolato che si rivolge a studenti tra i 18 e i 35 anni, residenti in Italia, non necessariamente italiani, quindi comunitari e extracomunitari, per delle finalità coerenti col percorso di studi, quindi tasso universitario, Erasmus, Master o le spese connesse al fuorisede, quindi il deposito occasionale, intermediazione immobiliare, l'acquisto di un PC. C'è, ovviamente il prestito è agevolato, e nel caso specifico di BNL, come lei ha ricordato, il tasso e le condizioni sono correlate al merito studentesco. Questo perché volevamo dare proprio una concretezza della relazione tra il merito universitario e il merito creditizio, perché in questo caso si valuta il cliente non su un reddito che non c'è, non su delle garanzie che non sono previste, ricordiamo che è un prodotto che non prevede né reddito né non garanzie. Prevede che il ragazzo sia accompagnato in banca in sostanza da papà, no. Ecco. Ma è proprio quello che vogliamo, cioè non lo prevediamo, perché vogliamo che sia un prodotto che con responsabilità porti il cliente a ci faccia pensare che i nostri clienti siano studenti che vogliono far da sé e non vogliono gravare sul bilancio familiare, e invece di chiedere 2.000 euro alla famiglia per pagarsi la retta universitaria si pagano 30 euro al mese con l'aiuto della banca. Certo, allora se un giovane, e poi naturalmente dobbiamo parlare anche di questo, l'abbiamo già detto, gli importi erogati dalle banche italiane nell'ambito di questo progetto sono molto contenuti, niente a che vedere con esperienze americane, ma può anche capitare, dottor Veltri, che ci può, come dire, possiamo incappare in qualche disavventura finanziaria nella nostra vita. Questo può capitare anche ad un giovane che magari si trova ad affrontare una spesa imprevista e deve saltare una rata, anche se è modesta, anche se è di 30 euro, magari in un mese un ragazzo non ci sta. Cosa succede in questo caso? Abbiamo pensato anche a questo, proprio perché diciamo che finanziamo soggetti vulnerabili, diciamo, in questa fase, e quindi è bene non cominciare male il percorso, che poi lo porterà magari a degli impegni diversi, pensiamo al mutuo, a una fase successiva della vita. Quindi per i primi 3 mesi c'è una sorta di franchigia, quindi concediamo 3 mesi al cliente per rientrare. Dopodiché c'è un primo sollecito soft a cui diamo ulteriori 60 giorni per entrare, quindi ci sono ben 5 mesi in cui il cliente può rientrare in questo momento di difficoltà. Dopodiché c'è anche il supporto di un fondo di garanzia che per il 50% ci può consentire di rientrare. Infatti è il fondo questo del Ministero per le Politiche Giovanili, giusto? Infatti ricordiamo che il progetto è nato d'intesa con il governo. Esatto. Va bene, abbiamo dimenticato qualcosa, dottor Veltri, perché io tra un po' devo salutarla, qualcosa di importante relativamente anche al messaggio che questo progetto vuole dare al nostro Paese? No, il messaggio importante è proprio questo, di affrontare il credito in maniera responsabile e sostenibile. Quindi le esperienze come quella statunitense, qui finché le banche almeno affronteranno il credito in questa maniera, non si potranno verificare. Infatti, io la ringrazio. Intanto ricordo, per chi lo volesse sapere, che visto che sono stati così gentili a tirarsi giù dal letto per noi questa mattina, il progetto di BNL si chiama, ovviamente, proprio nello spirito dell'iniziativa, Meritatamente. Il prestito in sostanza diminuisce come tasso di interesse, più aumenta il merito appunto dello studente, quindi migliori sono i voti, meglio va il percorso di studio, appunto, più il tasso di riferimento del prestito diminuisce. Dottor Veltri, grazie e buona giornata. Grazie a voi. E insomma, noi abbiamo parlato del prestito d'onore, in sostanza, poi tra l'altro non ho mai chiamato come si chiama esattamente in tutta la trasmissione, Alessandro. Allora, alle 12. Allora, oggi a Salvadanaio parliamo dei conti di deposito, quelli che riconoscono una bella remunerazione per chi ci mette un po' di soldini, ma in molti si chiedono come fanno a garantire questi tassi. Oggi indagheremo. Alle 8.32 minuti, le notizie in primo piano, va avanti l'inchiesta sugli appalti del G8, intanto il magistrato Achille Toro, coinvolto nell'inchiesta, ha dato le dimissioni irrevocabili. In una lettera aperta il capo della Protezione Civile Bertolaso dice di sentirsi come un alluvionato al patibolo. Ieri scontri tra manifestanti contro la TAV e le forze dell'ordine, un giovane è rimasto gravemente ferito, si trova attualmente in prognosi riservata all'ospedale delle Molinette di Torino. Per il calcio in Champions League va male alla Fiorentina, perde a Monaco 2-1 col Bayern l'andata degli ottavi di finale di Champions League, ma un gol allo scadere dei tedeschi in clamoroso fuorigioco alimenta le polemiche. Nell'altro ottavo Porto-Arsenal 2-1, stasera per l'Europa League tocca alla Juventus, in programma la partita ad Amsterdam con l'Ajax, e alla Roma che ad Atene affronta il Panathinaikos. Infine per le Olimpiadi di Vancouver, nuova medaglia, un bronzo per l'Italia, l'ha conquistato Arianna Fontana nello short track. E allora alle 8:33 parliamo di questa vicenda di cui ci giunge eco dalla Gran Bretagna, una vicenda clamorosa che ha conquistato anche le prime pagine dei giornali italiani oggi con commenti, con dibattiti, vale a dire la vicenda di un giornalista della BBC che ha confessato di avere ucciso anni fa il suo compagno che era malato terminale e dice: l'ho fatto per amore. È questa la nostra domanda che ci poniamo oggi nel sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. La domanda che ci poniamo è semplice e, per carità, io lo ridico, bando alle ipocrisie, parliamone tranquillamente. Voi condannate questo gesto? Un giornalista della BBC famoso che si è presentato qualche giorno fa in TV e ha sostanzialmente si è presentato con questa voce a raccontare. And maybe this is the time to share a secret that I've kept for quite a long time. Ha detto: forse è il momento di rivelare un segreto tenuto nascosto per anni. Ho ucciso una persona anni fa. Era il mio compagno, è stato il mio amante, aveva l'AIDS, era un malato terminale, soffriva indicibilmente. In ospedale il medico mi disse: ormai non c'è più nulla da fare, e allora io chiesi al medico di uscire un attimo e lo soffocai con un cuscino. Terrible, terrible pain. I said to the doctor, leave me just for a bit. And he went away. And I picked up the pillow. E ovviamente smothered him until he was dead. Questo giornalista è stato arrestato ieri, ha detto: io l'ho fatto per amore, è stato un gesto d'amore, era questo il nostro accordo. Ne sentite anche poi le lacrime di questa confessione, certo shock, che poi ha portato al suo arresto e ha detto: se n'è andato, nessuno ha detto nulla. Il medico non ha detto nulla, ma io lo voglio rivelare. Oggi il filosofo Gianni Vattimo, in un paio di interviste su Repubblica e sulla Stampa, dice: sulla dolce morte in Italia c'è troppa ipocrisia. Voi condannate questo gesto? Ne vogliamo parlare con due ospiti che intanto saluto. Mina Welby, buongiorno. Buongiorno. Mina Welby è la moglie di Pier Giorgio Welby, che per anni ha combattuto una battaglia per il diritto al rifiuto dell'accanimento terapeutico. Si è poi spento il 20 dicembre del 2006. Voglio salutare l'eurodeputato Carlo Casini, che è presidente anche del Movimento per la Vita. Buongiorno, onorevole. Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, Mina Welby, intanto, vabbè, ogni vicenda è diversa. Lei oggi lo ricorda anche in un'intervista al Manifesto, ma lei si è un pochino rivista in questa vicenda. Lei ha ricordato anche: mio marito mi chiese varie volte di lasciarlo andare, così? Sì, esatto, ma io non l'ho mai fatto e non avevo proprio intenzione di fare una cosa del genere, perché ero troppo attaccato a lui, quindi io per amore non ci sarei riuscito. Pier Giorgio mi ribatté tutte le volte: tu non mi ami abbastanza. E per me è stato dura anche dare il sì alla fine, quando il medico è intervenuto appunto per togliere il respiratore, e è stato fatto veramente con molta umanità. È stato sedato, quindi Pier Giorgio non se n'è accorto del soffocamento. Io questo non volevo, e non avrei voluto che lui rimanesse in uno stato di incoscienza, come io avevo paura appunto che potesse rimanere come Vincent Lambert, è quel ragazzo francese, quel pompiere che dalla mamma è stato, si può dire, avvelenato con un cocktail di barbiturici, ma non era la dose giusta, è rimasto in coma. E questo io non avrei mai voluto. Certo, un'ulteriore sofferenza. Senta, le chiedo, poi ci sarà la magistratura. A me stupisce un po', su Radio24.it molti votano e ci dicono alla domanda condannate questo gesto, ovviamente dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, il 78% per ora dice no, non lo condanniamo. Poi c'è la magistratura. Lei si sente di condannare dal punto di vista personale il gesto di questo giornalista della BBC? Io condanno il gesto perché non è stata un'eutanasia, perché soffocare una persona non è una bella morte, ecco, io per questo lo condannerei. Certo, se avessi avuto un altro modo non lo condannerei, perché magari capisco la sua esternazione di averlo fatto per amore, quindi credo che bisogna sempre vedere anche l'intenzione. E comunque non lo approvo, ecco. Non lo approva. No. Carlo Casini, eccoci qua, lei è presidente del Movimento per la Vita, eurodeputato dell'UDC, del Partito Popolare Europeo. Bisogna essere nettamente contrari, cioè oggi anche Adriano Sofri scrive l'ha fatto per amore, o voglio pensare, pur non conoscendo ovviamente questa la storia personale di questo giornalista della BBC, che l'abbia fatto per amore. Questo non basta? Questo è un attenuante o questo non vale secondo lei? Ma senta, vorrei proprio raccontare un episodio recentissimo che mi ha commosso molto. Sono stato a visitare domenica 7 febbraio un piccolo sottolengo a Castelnuovo Scrivia, dove stanno 40 bambini, 40 perché 40, non 41 o 39. Fatima, Denise, Desiree, Alice, Francesco, Sandro, tutti chiamati per nome dal personale, in lettini colorati, che, affetti da malformazioni gravissime. Loro sanno che al Cottolengo stanno proprio persone che non possono essere curate neppure a casa. Tutti bambini, quasi tutti ciechi, moltissimi sordi, molti abbandonati, testoni enormi e gambe rachitiche. La più sveglia di loro è Alice, 9 anni, alta come un bambino di un anno, che riesce a dire da pochi giorni mamma. Tutti curati con tenerezza, circondati da giocattoli. Se fosse vero che si può uccidere, ma perché tenerli in vita? Perché non mettere un cuscino sulla loro faccia di tutti questi 40 bambini che costano allo Stato, e destinare soldi in altre parti? Evidentemente la risposta non può che essere negativa. L'amore è questo. Non è però una situazione diversa di indicibile sofferenza anche quella, ma in questo caso il giornalista dice era in fase terminale, non c'era più niente da fare, forse pone anche un problema delle cure palliative, forse anche un problema diverso di come gestire la fase terminale della vita di una persona. Però il caso che ci pone lei è drammatico, ma è diverso di persone che nella sofferenza però rimangono in vita, rimarranno in vita, non hanno una morte certa e immediata. Nessuno di questi bambini arriverà all'adolescenza, i principi devono essere applicati con rigore. Allora, io devo dire dal magistrato, perché sono magistrato, che mica ci credo tanto a questa confessione di Gosling. Perché la confessione non è la prova principe, lo sappiamo tutti, può essere fatta per mille ragioni, e in questo momento in cui in Inghilterra si discute accesamente del suicidio assistito, Gosling viene alla televisione e dice una cosa, ma non vuol dire come si chiama la persona che è morta, non vuol dire quando, non vuol dire se, qui non sappiamo niente, non sappiamo se c'erano cure possibili, se c'erano cure palliative, quando è avvenuto, cioè io come giudice esiterei a condannare Gosling, ma non perché il gesto, se vero, sia accettabile. Perché non ci sono prove. Ma infatti anche in Gran Bretagna ci sono, ora ci si chiede, i magistrati potranno perseguirlo se si saprà qualcosa in più, perché lui ha detto non dirò neanche sotto tortura a quale episodio mi stia riferendo, anche se i nuovi sviluppi di cronaca pare che anche altri amici conoscessero questa vicenda, cioè anche ad altri amici avesse in passato detto io ho fatto questa cosa. Tra l'altro ci ha raggiunto, voglio salutarlo, Emilio Coveri, buongiorno. Buongiorno a tutti. Coveri è presidente presidente di Exit Italia. Ci vuol ricordare Exit, che associazione è? Sì, Exit Italia è l'associazione che stiamo lottando per il diritto ad una morte dignitosa. Noi siamo per l'eutanasia, siamo per il suicidio assistito e non siamo ipocriti e non abbiamo paura di parlare non di assassinio come state parlando, come stanno parlando tantissimi, non mi riferisco adesso in trasmissione né all'onorevole Casini né a Mina Welby, ma l'ipocrisia generale italiana è quella di dire che è un omicidio e stiamo assassinando la gente. Questo è un aiuto, questo signore qui della BBC ha aiutato il suo compagno a terminare i suoi giorni che sarebbero stati peggiori di quello che erano stati in precedenza. Certo, su questo Coveri converrà, lo ha fatto in un modo, come ha detto anche Mina Welby, brutale. Io ricordo per esempio il film Million Dollar Baby, forse certo, qualcuno se lo ricorda, allora, quello è un film però. Le dico una cosa, non bisogna arrivare a questi eccessi, anche perché se fosse purtroppo che il, come si dice, il grande, la grande remora che abbiamo qui noi in Italia è il fatto di dire abbiamo, non abbiamo una legislatura, non abbiamo una legislazione che ci consenta di poter eventualmente fare una normativa di legge che regolamenti questa materia, però il fatto stesso che una persona, intanto non si parte mai dal rispetto della persona che sta male. Parliamo sempre per se è giusto, se non è giusto, se condividete la cosa, non condividete la cosa. Noi chiediamo di fare sempre il testamento biologico, ossia la nostra disposizione di volontà messe per iscritto di Exit Italia, dove alla fine in calce al documento esiste anche la nostra dichiarazione che vogliamo il trattamento eutanasico. Perché quando ci sono queste ma quanto vale, stanno, voglio dire, quanto vale se non c'è una legge neanche per il testamento in biologico? In questo momento vale perché non c'è una legge, se mi permette, io scripta manent e verba volant, intanto prima cosa. Poi a parte il fatto di mettere per iscritto la mia volontà, ma vogliamo rispettare la volontà sua o di un'altra persona che ha detto, io se mi, a me se succedesse una disgrazia, una terribile disgrazia, di dover soffrire oltre misura, per cortesia aiutatemi a porre fine ai miei giorni perché non ce la faccio più. Benissimo, allora a questo punto noi per esempio indichiamo anche la via della Svizzera del suicidio assistito. Gli italiani in questo momento hanno la possibilità di avere il suicidio assistito perché noi andiamo in Svizzera, purtroppo dovremo morire in esilio, sì, perché questo nostro povero paese non ci permette di fare. C'è questa associazione che si chiama Dignitas che appunto fa il suicidio assistito. Le risponderà Carlo Casini dopo il traffico, deve andare al traffico anche Mina Welby. Che ne pensate insomma di questo gesto di questo giornalista che anni dopo ha confessato di aver ucciso il suo compagno malato terminale perché soffriva molto, non c'era più niente da fare e perché dice lui mi aveva chiesto così, era un gesto d'amore che gli avevo promesso. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Ci stiamo interrogando allora sul gesto e sulla confessione di questo giornalista della BBC che ha detto vari anni fa, peraltro 20 anni fa, ho ucciso il mio compagno malato terminale. Mi aveva chiesto così. Vediamo Manuel da Brescia, che ci vuol dire, che ne pensa? Lei condanna questo gesto? No, io non condanno il gesto, fra l'altro molto telegraficamente, per quel che ne so è pratica diffusa fare un'overdose di morfina poche ore quando inizia l'agonia dei malati terminali. Quindi mi chiedo anche se è una questione di ore, non è la stessa cosa del gesto che ha fatto questo giornalista, su questo almeno siamo d'accordo, voglio dire. Filosofia. Non ho capito, mi scusi, non dico, è la me ne rendo conto che non è la stessa cosa. Però il principio mi sembra lo stesso. Carlo Casini, questo ha detto anche oggi Vattimo in questa intervista, cioè c'è ipocrisia. Chi ha è della classe sociale che gli consente questo, si rivolge al medico di turno e questo succede. Poi si parla tanto di principi, si ricorda anche Umberto Veronesi che di recente in un'intervista invece Scalpore disse cosa si succede negli ospedali, va via un attimo, rimane l'infermiera e... Ma io credo invece che ci sia molta ipocrisia in questa battaglia per l'eutanasia, perché non ci nascondiamo dietro un dito, di questo si tratta. cercando di gonfiare casi, cambiando senso alle parole, eccetera. Un conto è alzare la bandiera bianca perché la lotta per la vita termina, tutti si deve morire e quindi l'accanimento terapeutico certo non si deve fare. E questo avviene, ovviamente, si muore sempre negli ospedali, quindi c'è anche il momento in cui si dice non c'è più niente da fare. Un conto è propinare positivamente o comunque fare in modo e decidere con azioni passive o attive che una persona debba morire. E altra ipocrisia l'amore, ma insomma l'amore fa vivere, non uccide. Io ho visitato a Bertinoro una signora, si chiama Patrizia, nello stesso stato di Ruana, tale e quale, che però riesce appena appena a comunicare con il computer solito, e ha fatto scrivere sul suo letto: io vivo perché qualcuno mi ama. Allora dire che l'amore è far morire la gente è ipocrisia. E ancora oggi tutti i medici sanno benissimo che il dolore si controlla, si può controllare il dolore. Però lei dice, scusi, questa signora che lei ha visitato, simile alla vicenda di Luana, ma questa signora comunica, non è allora molto simile? Sappiamo, comunica muovendo il vento, muovendo il vento, interrompendo un circuito di due cellule. E chissà che anche Luana non avrebbe potuto fare qualche cosa del genere. Sono state tante bugie su Luana: staccare la spina, che era ormai un corpo devastato, era ancora una bella donna, veramente. Insomma, io assisto continuamente a ipocrisie e rigetto l'accusa di ipocrisia. Vorrei tornare... L'amore fa vivere, non fa morire. Vorrei tornare da Mina Welby e poi Emilio Coveri. Mina Welby, in Italia lei ha detto non si riesce neanche a mettersi d'accordo, o chissà, insomma, sul testamento biologico. Per la verità, al Senato è passata con tante polemiche, con tanti temi da dibattere, si vedrà alla Camera. Figurarsi una discussione pacata o possibilista sull'eutanasia. Secondo lei, dietro anche a questo gesto, a questa confessione di questo giornalista, c'è un disegno più ampio, quello di porre un problema? Ma non lo so, perché nel momento che questo giornalista non vuol parlare, chi è stato il soggetto del suo, l'oggetto del suo omicidio, credo che potrebbe essere anche un, non lo so, quasi una provocazione, una pubblicità o qualsiasi altra cosa. Io spero di no, ma comunque dovrebbe essere vista la cosa, conosciuto il caso, e a base di quello si può parlare poi serenamente di cose, ma non in questa maniera. Io su queste cose voglio sempre chiarezza, assoluta chiarezza. Ha sentito invece Coveri, Casini, amore è preservare la vita, non dare io la voglio morte. Chiedermi, allora, io voglio chiedermi una cosa: perché voi dovete, dico voi, perché mi dovete far soffrire oltre misura, più di tanto quando io ho deciso, anche per iscritto, di che qualcuno mi aiuti a porre fine ai miei giorni disastrati? E poi un'altra cosa, io capisco Casini che dice giustamente la vita eccetera eccetera, allora queste persone che stanno malissimo e hanno delle patologie tremende hanno il diritto di continuare a vivere. Faccio un esempio banalissimo: il dottor Merazzini, che è il presidente dell'associazione sclerosi laterale amiotrofica, tutti lo conoscete, Mario Merazzini, lui ha dichiarato che vuole continuare a vivere fino alla fine nonostante la sua patologia. Lui ha questo diritto. A noi questo diritto, invece di porre fine ai nostri giorni di disastrati e schifosi, non ci viene consentito. Ma perché questa cosa qua? Allora, mettiamoci intanto in testa che il discorso di Eluana Englaro che faceva prima il dottor Casini non regge tanto, perché Eluana era in uno stato. Intanto l'avevano visitati dottori. Ma infatti non riapriamo quel eccetera, caso. E quindi lasciamo stare. Ma io voglio capire questo. Continuate a dire che questo è un omicidio. Mina Welby mi fa stupire di quello che ha detto, l'ho sentita per la prima volta oggi e sono veramente così un po'. Vabbè, lasciamo stare. Però il gesto forse Mina Welby dice anche il gesto del cuscino, insomma è una cosa. Il gesto del cuscino è come quello che di Lucentini, che si è buttato giù dalla tromba delle scale perché aveva saputo che non poteva più andare avanti, così è come quello di quel dottore di Bologna che ha soffocato sua moglie, poi si è ucciso lui perché non poteva vedere sua moglie. E Coveri mette due cose: uno che si toglie la vita non è uno che la toglie all'altro, su questo scusate, il fatto di mettere il cuscino è come fare una un'iniezione di pentobarbital di sodio come fanno in Olanda, in Belgio e in Lussemburgo, oppure di farsi prendere, dare un pentobarbital da ingerire e porre fine a questi giorni infami, perché sono giorni infami. Pensate a una persona che sta male e non può più vivere, non può più, quella non è più vita. Io ve lo dico, la vita, noi siamo per la vita, è bellissima quando si va al cinema, si va al ristorante, si va in ferie, si va con gli amici. Quando stai male, non ne puoi più, non hai più voglia né di andare al cinema, né in ferie, né con gli amici, neanche al ristorante. Allora, io mi devo fermare, Casini, però lei mi promette in 20 secondi, cioè questo è il tema che dicono chi è favorevole all'eutanasia, cioè c'è il diritto alla libertà di vivere di chi vuole vivere. Io invece che voglio interrompere la mia vita, mi viene preclusa questa libertà. Perché? Per una semplice ragione, che chi è morto non è più libero. E perché c'è l'esperienza continua dei medici che chi la sera dice voglio morire, se durante la notte assistite e qualcuno gli tiene una mano, la mattina dice fatemi vivere. Va bene, ci dobbiamo fermare, le 8:55 minuti, il dibattito continua perché questi sono temi ovviamente che non si possono neanche esaurire in mezz'ora e così, ma io ringrazio davvero tutti, Carlo Casini, eurodeputato, presidente del Movimento per la Vita, Mina Welby, la moglie di Pier Giorgio Welby, ed Emilio Coveri che è presidente di Exit Italia, la sezione italiana. Votate su radio24.it quello che pensate sul gesto da condannare secondo voi di questo giornalista della BBC. Devo dire che prevalgono sempre i no nettamente con il 77%. Ringrazio Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci ritroviamo dopo aver dato come di consueto la linea a Oscar Giannino a 9 in punto. Noi ci troviamo domattina, ricordate la nostra mail bianco o nero @radio24.it. A domani.